Buongiorno a tutti e a tutte, benvenute alla puntata di oggi di C'è Trippa per Gatte e Materialismo per femministe, lesbiche, compagne, poete e guerriere. Oggi parliamo di classe, di pensiero materialista e di lotta di classe. Il primo concetto, il pensiero materialista, spaventa un po' tutte e tutti, almeno chi non mastica troppo di filosofia, mentre il secondo, la lotta di classe, dovrebbe spaventare solo i porci borghesi. Ma entrambe queste affermazioni sono erronee e vi spiegherò il perché nel corso di questa trasmissione. Beh, innanzitutto parlare di lettura materialista, di filosofia materialista, di materialismo storico e così via non dovrebbe spaventare, perché significa qualcosa di abbastanza semplice. Significa guardare le cose da un punto di vista dei rapporti economici di potere. Detto in altri termini, vuol dire andare a vedere quali sono le possibilità di accesso ai beni e alle risorse degli individui e cosa ciò comporta da un punto di vista, appunto, di accesso anche alle strutture di potere. Ancora più semplicemente possiamo dire che significa chi c'ha i soldi e quindi chi c'ha il potere e chi non ce li ha. Per continuare il nostro discorso, oggi ci facciamo aiutare da due pensatrici femministe, materialiste appunto, che sono Silvia Federici e Paola Tabet. La prima, Silvia Federici, è tornata di moda, possiamo dire, da qualche anno in Italia per aver scritto alcuni libri che criticano Marx, potremmo dire, da sinistra, cioè con un punto di vista femminista, mentre la seconda, Paola Tabet, è tornata a occuparsi di donne e lotta di classe dopo essersi per anni occupata di razzismo e stereotipi culturali. Federici, filosofa, pensatrice materialista e femminista, ha insegnato negli Stati Uniti e in Nigeria. È anche stata, è tuttora attivista dei movimenti femministi e antiglobalizzazione, quali per esempio negli ultimi anni Occupy. In italiano l'anno scorso è uscito il Punto Zero della Rivoluzione, Lavoro Domestico, Riproduzione e Lotta Femminista, mentre di qualche anno fa è Il Grande Calibano o Calibano e la Strega, Storia del Corpo Sociale Ribelle nella prima fase del Capitale. Già negli anni 70, con il collettivo femminista napoletano, Silvia Federici si era occupata del lavoro domestico delle donne, sostenendo che il lavoro non salariato delle donne è il pilastro dell'accumulazione capitalistica della ricchezza, perché è produzione di forza lavoro. Di qui la necessità del sistema capitalistico di nascondere e naturalizzare o biologizzare lo sfruttamento delle donne attraverso la svalutazione delle donne. Per Silvia Federici il concetto di classe e di lotta di classe devono quindi cambiare. Luogo di scontro della lotta di classe diventa anche la famiglia, come lotta contro gli uomini, perché il capitalismo ha delegato agli uomini il controllo e il comando sopra la forza lavoro femminile. L'uomo, in virtù del suo salario, è di fatto il rappresentante dello Stato dentro la famiglia. Ascoltiamo un estratto di un'intervista a Silvia Federici in cui ci spiega queste cose, realizzata da Angela Balzano per Woman.it. Allora, una delle grandi lezioni del movimento femminista è stata praticamente la nuova analisi che ha fatto del processo di organizzazione del lavoro capitalistico, che di contro a tutta una tradizione marxista che sempre aveva identificato il lavoro come lavoro industriale, lavoro salariato, il femminismo ha aperto tutto questo grande continente inesplorato che è stato il lavoro non salariato delle donne. E si è detto, si è scoperto infatti che questo lavoro è stato il pilastro storicamente dell'organizzazione capitalistica del lavoro e dell'accumulazione capitalistica della ricchezza. Perché cambiando completamente i parametri con cui è sempre stato valutato, si è visto che questo lavoro in realtà è produzione di forza lavoro, non è un servizio personale che le donne fanno alla famiglia, ma in realtà un lavoro di produzione, produzione di forza lavoro, produzione di quello che è il bene più importante per il capitalismo, che è la forza lavoro stessa. A partire da questa analisi, che poi è stata un'analisi estremamente feconda, perché a partire da questa analisi abbiamo ripensato non solo alla posizione sociale della donna, perché questa discriminazione contro le donne, abbiamo ripensato i rapporti di genere, la funzione stessa del salario, abbiamo visto che il salario ha un rapporto sociale molto più complesso di quello che si è sempre immaginato, no? In quanto sulla differenza tra salario e non salario, il capitalismo ha costruito tutta una gerarchia di genere, ha anche usato questa differenza per naturalizzare, no? Per invisibilizzare, nascondere, naturalizzare tutto questo terreno di sfruttamento. E poi abbiamo anche ripensato cos'è il capitalismo stesso, nel senso che abbiamo visto che al centro del rapporto capitalistico c'è non solo la separazione dei produttori dai mezzi di produzione, ma c'è anche questa svalutazione radicale del lavoro di riproduzione, che è stata veramente la fonte dell'accumulazione capitalistica. E abbiamo visto che la storia delle donne nel capitalismo è radicalmente connessa a questa svalutazione. A partire da questa prospettiva, ovviamente anche il concetto di classe, di lotta di classe, ha dovuto cambiare. Per esempio abbiamo visto che nella lotta di classe molto spesso doveva cominciare contro la lotta dentro ai rapporti familiari, la lotta contro gli uomini, perché si è visto che attraverso il salario il capitalismo ha delegato agli uomini il comando sopra la forza lavoro femminile, e quindi l'uomo in un certo senso, in virtù del suo salario, è stato il rappresentante dello Stato dentro la famiglia. E quindi molto spesso per liberarsi le donne hanno dovuto cominciare a lottare. Allora, a partire da questa prospettiva, naturalmente è cambiato anche il concetto di classe e lotta di classe. Per esempio, la famosa questione, la famosa domanda che spesso le femministe si sono fatte: come conciliare il femminismo con le prospettive di classe? È una domanda che noi abbiamo scartato perché abbiamo visto, dichiarato che le donne, in quanto produttrici di forza lavoro, non sono mai state fuori dalla classe. E quindi una prospettiva femminista, cioè una prospettiva di lotta sul terreno della riproduzione, non è una prospettiva che si doveva conciliare con un altro, no? Con questa alta prospettiva di classe. Ma era già una parte. In altre parole, abbiamo visto che il proletariato, già fin dalla prima fase del capitalismo, è nato molto differenziato, perché il capitalismo ha creato, mediante soprattutto, no, il differenziale tra salario e non salario, tutto un rapporto di divisioni, di gerarchie, e molto spesso, specialmente, ha naturalizzato il rapporto di sfruttamento, in modo che tanti personaggi, soggetti sociali, producenti capitale, apparivano al di fuori del capitalismo, no? E abbiamo anche reinterpretato il concetto di lotta di classe, vedendo che proprio perché la classe è stata divisa ed è stata costruita in un modo estremamente gerarchico, e quindi c'è stata una continua delega da parte del capitalismo ai salariati, del comando sul lavoro dei non salariati, la famiglia, il rapporto tra uomo e donna, marito salariato e casalinga non salariata è classico, no? Questo ci ha fatto vedere che la lotta di classe spesso comincia a casa, spesso comincia nella famiglia, e questa è un'esperienza d'altra parte quotidiana, no? Tutte noi scoprivamo che molto spesso, per poter lottare contro il capitalismo, dovevamo fare una lotta in famiglia per poter uscire la sera, per poter tagliare i tempi del lavoro domestico, e per imporre un maggior compartimento di questo lavoro ai nostri compagni. E quindi questa è stata anche un'esperienza quotidiana. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. All I wanna do is democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already on? Abbiamo ascoltato dalle parole di Silvia Federici come un'interpretazione femminista del pensiero materialista di origine marxiana trasforma il concetto di classe, di lotta di classe, creando un nuovo soggetto politico, la classe delle donne, oppressa dalla classe degli uomini, e il terreno di scontro si sposta di conseguenza nella sfera familiare. Vi propongo ora un brano del breve saggio Non si nasce donna di Monique Wittig, che spesso citiamo per la famosa affermazione per cui le lesbiche non sono donne in quanto non appartengono a quella categoria di soggetti, a quella classe, le donne, creata storicamente, economicamente e socialmente in funzione della categoria, della classe, degli uomini. Monique Wittig scrive: sta a noi definire storicamente in termini materialistici ciò che chiamiamo oppressione, analizzare le donne in quanto classe, il che vuol dire che la categoria donne, così come la categoria uomo, sono categorie politiche e che, di conseguenza, non sono eterne. La nostra lotta è volta a sopprimere gli uomini in quanto classe, attraverso una lotta di classe politica, non un genocidio. Quando la classe degli uomini sarà scomparsa, le donne, in quanto classe, scompariranno a loro volta, perché non ci sono schiavi senza padroni. Per le donne il marxismo ha avuto due conseguenze. Ha impedito loro di pensare e, di conseguenza, di costituirsi come classe per lungo tempo, sottraendo la relazione donne-uomini dall'ordine sociale, facendone una relazione naturale, senza dubbio l'unica insieme a quella fra madri e figli, e nascondendo il conflitto di classe tra uomini e donne dietro la divisione naturale del lavoro, vedi l'ideologia tedesca. Questo è quanto concerne il livello teorico, ideologico. Per quanto riguarda il livello politico, Lenin, il partito, tutti i partiti comunisti fino ad oggi e tutte le organizzazioni comuniste della sinistra, compresi anche i gruppi politici più radicali, hanno sempre reagito a tutti i tentativi da parte delle donne di riflettere o di formare gruppi a partire dai propri problemi di classe con l'accusa di divisionismo. Nell'unirci, noi donne dividiamo la forza del popolo. Questo significa che per i marxisti le donne appartengono sia alla borghesia sia al proletariato, cioè agli uomini di queste classi. Inoltre, la teoria marxista non permette alle donne né ad altre categorie di oppressi di costituirsi come soggetti storici, perché il marxismo non tiene conto del fatto che una classe è anche costituita di individui, uno ad uno. Love, prepare yourself to shine. I have no other way. Should know by now. No, there's no reason to hide. We all know you've got pain. We all know you've got pride. I really love your pride. Yes, I see my reflection shining from the corners of your eyes. My philosophy that when I believe in you, I believe in me, I believe in me. Love, I'm tired of nostalgia. It's just trapped imagination. I'm happy with right now. No, it's not that I'm afraid of something I may find. It's just all of those designs we put on everything once we've had the experience. Romanticize until it's worth our while. My love, I want to know the truth. I want an empty room that I can scream in. Don't have to believe in. My love, I want to be myself, but not all by myself. It felt good to walk away, take back some what is mine. Cause it's hard to see you shine. Cause it's hard to see you shine when I'm here slowly dying. You know I don't feel proud to be so selfish. I don't really mean to bring you down. Yes, it's my philosophy that if I'm accepting you, you're accepting me. You're accepting me. You're accepting me. You're accepting me. My philosophy. Passiamo ora a parlare, anzi a far parlare, Paola Tabet, etnologa e femminista, filosofa materialista. Fa parte del gruppo di scrittrici e pensatrici che si è raccolto intorno alla rivista Question Féministe a partire dal 1977 come Christine Delphi, Colette Guillemin, Nicole Claude Mathieu, Monique Wittig, di cui abbiamo appena letto un brano, e appunto Paola Tabet. È da poco uscito in italiano il suo ultimo libro, che si intitola Le dita tagliate, in cui si indaga la divisione del lavoro fra donne e uomini e l'esclusione delle donne dall'accesso a tutta una serie di strumenti tecnici, di strumenti di produzione e di difesa, quali le armi. Ascoltiamo un'intervista a Paola Tabet realizzata da Radio Radicale, in cui appunto presenta il libro e spiega il titolo. Il titolo Le dita tagliate si riferisce a un fatto, ma è l'ho preso come metafora di una situazione, cioè si riferisce, ho studiato già molti anni fa e poi ripreso, la situazione, la divisione del lavoro tra uomini e donne, partendo dalle società più semplici che conosciamo di caccia e raccolta, e quello che diciamo è venuto fuori è la costante differenza di strumenti a disposizione usati da uomini e donne, appunto dalle società più semplici, ma è una situazione che è durata e dura largamente fino a oggi, cioè in generale in tutta la società le donne non hanno avuto accesso alle armi, che erano dalle società di caccia e raccolta uno strumento sia di offesa, insomma, che di uno strumento per la sopravvivenza, per la caccia e così via. le donne non hanno avuto accesso a certi strumenti quali le armi, ma in generale in tutte le società, e è un divario che è durato anche fino alle nostre società attuali, hanno avuto accesso agli strumenti meno perfezionati, in genere più semplici di ogni società. E da studi anche sulle fabbriche, da studi fatti negli anni anche recenti, viene fuori che per esempio se c'è uno strumento più complesso, generalmente tocca prima di tutto agli uomini usarlo e solo in seguito alle donne. Quindi c'è un divario proprio tecnico nell'uso degli strumenti, non è al 100% oggi ovviamente, però fa parte di quello che è la differenza nella posizione di lavoro di uomini e donne, e a quello possiamo riportare anche a quello che chiamano il soffitto di cristallo, cioè le donne arrivano a un certo punto ma poi si fermano. Ora, la storia delle dita tagliate è particolare, nel senso che io stavo studiando quali erano le differenze nell'uso di strumenti, da quelli agricoli, da quelli caccia raccolta, gli strumenti usati nell'agricoltura, nella popolazione agricoltura semplice in particolare, fino all'artigianato, ma anche a cose, non so, l'uomo fabbro, la donna che può azionare i mantici ma non è fabbro lei, e così via. E mi capita in mano un libro che trattava di una popolazione di cacciatori della Nuova Guinea, in cui l'antropologo che lo descrive, la descrive come popolazione bellissima, di una cultura impressionante, di impressionante bellezza, e dice che le donne e gli uomini hanno tutte le armi, le cacce, eccetera, e le donne allevano i maiali e fanno la parte agricoltura, ma queste donne, quasi tutte le donne, mi pare oltre un centinaio di questa popolazione di Dugumdani si chiamano, alle donne da piccole, fin da bambine, quando c'è da fare delle cerimonie funebri e fare qualcosa in omaggio al morto, gli uomini donano dei maiali, e alle bambine vengono regolarmente tagliate le dita, tanto che di tutte le donne che erano lì solo cioè in generale mancano, restano pollice, indice e magari tre dita di una mano e le dita opponibili dell'altra, ma insomma 5-6 dita partono. E però, dice l'etnologo, cioè le donne comunque non è che non possono far niente, perché proprio le cose che non possono maneggiare, dagli archi a strumenti pesanti e così, sono quelli che le donne non possono comunque, non usano nemmeno nelle altre culture. Con queste dita fanno i lavori che le donne a quel livello lì insomma, società appunto con un'agricoltura molto semplice, è quello che le donne possono fare in altre culture, fanno anche in questa cultura qui. Allora, da questo metaforicamente mi sono chiesta se si può parlare in generale di questa amputazione delle possibilità fisiche delle donne, che possiamo vedere anche in tante altre cose, nel fatto che le donne usano cose per cui è stato sempre difficile muoversi, c'è stato amputazioni vere e proprie nella storia dai piedi fasciati delle cinesi, ma in forma molto minore, tacchi alti oggi, ovviamente non irreversibile, ma che posso dire, cioè, tante cose che hanno impedito in generale alle donne la libertà del corpo, la libertà di muoversi in uno spazio, la libertà, poi si può parlare anche di altre cose. Per me quello che è importante sostenere oggi un fatto di base di una persistente differenza di accesso. Di accesso alla ricchezza, di accesso al lavoro, di accesso in molti casi allo studio che hanno avuto le donne, che hanno le donne. Il libro Le dita tagliate di Paola Tabet è uno studio sullo scambio sesso-economico fra donne e uomini, cioè sesso, servizi sessuali che le donne danno, ma anche procreazione e lavoro domestico, appunto, che le donne danno in cambio di un compenso economico più o meno diretto. Questo scambio sesso-economico non riguarda solamente la prostituzione, ma l'insieme dei rapporti fra donne e uomini nella società capitalista e patriarcale. Ascoltiamo di nuovo Paola Tabet. È un discorso che ho impostato, proprio questo termine, scambio sesso-economico. Stavo studiando appunto la prostituzione e mi sono, studiando prostituzione, ho visto come c'è una cosa che mi ha colpito al momento, cioè che vedendolo attraverso molte popolazioni non esiste nessun elemento, un unico elemento che possa definire la prostituzione, possa essere la definizione di prostituzione che danno l'insieme delle popolazioni, cioè per uno viene detto una cosa, per una in un'altra popolazione un'altra cosa e in realtà diciamo si crea la può essere considerata prostituta in realtà prostituta donna diciamo in posizione negativa quella che non obbedisce alle regole della sua società. Quale che siano queste regole, può essere che le viene chiesto di avere rapporti con tutta una serie di uomini e è considerata puttana, diciamo, quella che invece ha un solo rapporto ma deciso da lei anziché dal marito, tanto per prendere un caso estremo, no? E questo era un dato interessante. A me è interessato però questa cosa dello scambio sesso-economico, perché ho usato come termine, perché non riguarda assolutamente la prostituzione o la sola prostituzione, ma è l'insieme dei rapporti tra uomini e donne in cui diciamo la donna dà una serie di servizi e in cambio di una serie variabili di possibilità che sono dall'essere la sposa dell'uomo all'essere dal matrimonio a qualsiasi altro tipo di rapporto in cui l'uomo contribuisce con dei beni o dei soldi, cioè secondo la popolazione, e la donna dà in cambio la sessualità, ma non solo un servizio sessuale. Quello che è interessante è che questo scambio comprende, può comprendere il servizio sessuale basta in certe condizioni, ma in tante, nella maggioranza di altre condizioni, comprende la procreazione, il fare figli, comprende il lavoro domestico, quindi comprende l'accudimento insomma della famiglia in generale, no? E cioè è uno scambio che è molto molto più vasto di quello che sarebbe quella che viene da noi considerata la prostituzione e il suo interesse proprio, l'interesse di questo termine è che comprende proprio un continuum, quello che chiamo un continuum che va dal matrimonio al rapporto pagato, contrattualmente pagato, definito come pagamento e come prestazione sì. sessuale, ecco. E, a differenza tra l'altro della prostituzione, almeno nei termini che noi la conosciamo moderni, non ha una definizione precisa, io ti do tot contro tot, no? Questo servizio viene pagato, c'è cioè un'ora, un tempo e una definizione di che cosa comprende e così come viene definito, stabilito il pagamento. Il matrimonio non definisce cosa dai, è globalmente presa la persona se vuoi. E ascoltiamo ancora l'intervista a Paola Tabet sul concetto per cui le donne e gli uomini appartengono a classi diverse in lotta fra loro. c'è un problema di struttura sociale, c'è un problema delle modalità di accesso al lavoro e del pagamento del lavoro fatto dalle donne, che ancora rimane più basso in moltissimi settori, della difficoltà di accesso ai posti più remunerati. Cioè, non è solo, se lo vediamo tra un uomo e una donna è una cosa, ma è un problema diciamo sociale generale questo, no? E in questo senso il matrimonio costituiva, specie in passato, un po' l'unica forma di sopravvivenza per la donna. Ora non lo costituisce più, non sempre, però rimane questo grave divario tra i sessi. Ecco. Rimane anche, oltre a quello, il peso della violenza nel creare questo divario. Se le statistiche americane davano, ora non mi ricordo a mente, ma insomma praticamente roba tipo la perdita di un anno ogni 5 anni di vita delle donne a causa di situazioni di violenza esplicita, larvata, comunque cose che causano e dei problemi fisici, depressioni e perdite di lavoro, tante cose insomma. E l'idea che non è solo mia, del gruppo degli uomini, del gruppo delle donne come classi diverse in senso marxiano, il fatto di essere classi diverse nel caso di uomini e donne comprende l'insieme della vita, cioè anche la sessualità, anche la procreazione, anche l'obbligo di procreare. Se tu pensi a una cosa che è stata così importante anche in Italia, la possibilità di abortire, la possibilità di decidere della procreazione, voglio dire, sono state cose di grande importanza e di grande rilievo nei rapporti tra i sessi e nella struttura della società in generale. Certamente l'idea di classi diverse che gli uomini e donne hanno avuto è stato un rapporto di classe con configurazione appunto per cui gli uomini avevano e hanno il 90% delle ricchezze mondiali ancora o roba di questo genere, non so le ultime statistiche, però se vai a vedere proprio semplicemente in termini di potere materiale, di proprietà, oltre che di accesso al lavoro, ma proprio di proprietà, c'è una disparità pazzesca ancora tra i due sessi sul piano mondiale, e questo deve dire, significa qualcosa, non può non significare qualcosa. Lo significa tra le nazioni, lo significa tra le classi in senso vecchio, insomma, nel senso abituale, è chiaro che lo significa tra uomini e donne. E con questo concludiamo la puntata di oggi di C'è Trippa per Gatte. Abbiamo dato alcuni spunti di riflessione sulle critiche femministe al pensiero marxiano all'interno di una concezione materialista della società e dell'esistenza, per cui le donne appartengono a una classe differente da quella degli uomini e la lotta di classe quindi ha vari luoghi di scontro, fra cui anche quello della famiglia. Con questo vi salutiamo, torneremo sull'argomento più avanti nelle prossime puntate. Buon ascolto, ciao! Think of all their crossings. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different the second time around.